Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei temi europei, dei quotidiani, delle riviste che si sono occupati di temi europei, specialmente in Europa. E vi ricordo anche, forse la scorsa settimana mi sono dimenticata, che potete mandare dei messaggi al 349-238-6666 oppure anche al mio account Twitter, vi leggo sempre molto volentieri, che è Giulia-Crivelli, e sono anche su Facebook e forse è fin troppo. Ma veniamo appunto agli articoli che ho selezionato per questa settimana. Il più importante, secondo me, riguarda un voto che ci sarà domani in Ungheria e gli ungheresi sono chiamati a esprimersi sul piano dell'Unione Europea per la distribuzione dei rifugiati, che, come sapete, perché se ne parla tantissimo anche in Italia, se ne è parlato al vertice di Bratislava, se ne parla da tante angolazioni tutti i giorni, prevede appunto che i rifugiati che entrano nell'Unione Europea quasi sempre dall'Italia o dalla Grecia o a volte dalla Spagna, debbano poi però essere redistribuiti. Al governo ungherese, che è un governo di centrodestra, il governo Orban, questo piano non è mai piaciuto e ora, in barba tra l'altro alle regole dell'Unione Europea, perché non sono previsti referendum di questo genere, quindi vedremo poi se avranno un esito che veramente impone un cambio della politica europea oppure se è una consultazione, per quanto importante e che sicuramente peserà poi nelle negoziazioni, quindi vedremo poi e dipenderà anche molto da quale sarà questo esito. Vox Europa ha raccolto, e sapete Vox Europa è questo sito che io cito spesso, che fa un po' questo lavoro di monitoraggio degli articoli su questioni europee. Jan Schreiber, il giornalista, ha scritto cercando di far capire a noi che, tutto sommato, al di là del proclama e della notizia del referendum, sappiamo poco di come gli ungheresi si sono avvicinati a questa data del referendum. Spiega appunto che cosa ha fatto il governo Orban, del primo ministro Viktor Orban, che ha promosso questo referendum per convincere gli elettori ungheresi a votare, come indica il suo partito Fidesz, cioè no al piano di ridistribuzione dell'Unione Europea. E quindi, per esempio, veniamo a sapere che è stato distribuito un opuscolo a più di 4 milioni di famiglie che invita a votare contro le quote dei rifugiati. In questo opuscolo si legge ad esempio: dobbiamo fermare Bruxelles, se non agiamo fra 20 anni non riconosceremo più l'Europa. L'opuscolo contiene tra l'altro fatti distorti, secondo quanto ci raccontano non soltanto questo giornalista ma anche per esempio Lydia Gall, che è una ricercatrice sull'Europa orientale e i Balcani occidentali del Human Rights Watch, di questa organizzazione non governativa. Infatti quello che secondo questa ricercatrice fa la brochure è una campagna di disinformazione sponsorizzata dal governo, aggiungendo tra l'altro che il costo di questa operazione è stato di 16 milioni di euro, quindi il governo ha usato fondi statali che quindi appartengono a tutti, anche a chi magari non è d'accordo con questa opinione, per stampare e mandare questi opuscoli. Alla BBC News, Zoltán Kovács, che è un politico ungherese, ha dichiarato che le persone in tutta l'Unione Europea si rendono conto che sta succedendo qualcosa di sbagliato con l'immigrazione, perché la situazione è fuori controllo. Questo è un fatto incontrovertibile, che ci siano dei problemi a gestire l'immigrazione. Resta appunto da capire, e vedremo per esempio come la pensano la maggioranza degli ungheresi, se una strada sia quella di non applicare più questo piano di ridistribuzione. Ma a quel punto bisogna capire tutti questi migranti, che sappiamo benissimo non si fermano perché scappano da una situazione che, nel penso 99% dei casi, 99,9% dei casi, è peggiore di qualsiasi cosa possano trovare dopo il viaggio, affrontare durante il viaggio. Quindi resta da capire, visto che continueranno ad arrivare, come appunto gestirli. Per cambiare argomento e tornare comunque all'Italia, a quello che succederà, l'Italia ha avuto, mi collego comunque all'Italia perché l'Italia ha avuto, tramite il nostro premier Matteo Renzi, ha preso delle posizioni molto forti sulla questione dell'immigrazione, dicendo che noi continuiamo a fare la nostra parte, sappiamo quanto per esempio la Marina Militare, quante persone abbia salvato nel Mediterraneo, però si ha la netta sensazione, adesso referendum ungherese a parte, che le autorità di Bruxelles Bruxelles non si curino abbastanza della questione dell'immigrazione, del fatto che la maggior parte, il primo punto di approdo è l'Italia, e che appunto l'Italia non può essere lasciata sola a fronteggiare questa emergenza. Ma per parlare d'Italia anche da un punto di vista diverso, la Süddeutsche Zeitung, che è uno dei più importanti quotidiani tedeschi, si è occupata del referendum costituzionale. Sapete, la novità di questa settimana è che finalmente sappiamo quando andremo a votare, il 4 dicembre. Questo ha dato lo spunto alla Süddeutsche Zeitung per parlare di questo referendum, e vi leggo una parte di questo articolo: bisogna di nuovo preoccuparsi per la stabilità in Italia. Secondo la Süddeutsche Zeitung, e del resto è un'interpretazione che mesi fa lo stesso Premier aveva aiutato a fare, è una questione di sopravvivenza per il governo il voto del referendum. Naturalmente sarebbe più importante, scrive la Süddeutsche Zeitung, razionalizzando tutto, ma in questa campagna di razionale penso che la maggior parte degli ascoltatori siano d'accordo, ormai c'è molto poco. E la Süddeutsche Zeitung scrive: è meglio che Renzi venga misurato sulla sua più importante riforma, perché se cade in un colpo si infrangono molte certezze maturate soprattutto a Bruxelles e Berlino. A proposito di Berlino, ma soltanto come parola, gli altri quotidiani tedeschi si sono occupati un po' di quello che potremmo chiamare il risico aereo. Sappiamo che l'Alitalia, benché abbia come questo forte nuovo socio, quasi proprietario, socio di maggioranza, che è la Etihad, continua a perdere, pensate, 100 milioni di euro al giorno. E il problema dell'Alitalia è che non si sa bene come risanarla, ma se è vero che l'Alitalia ha delle zavorre, dei problemi che vengono da molto lontano, è l'intero trasporto aereo europeo sicuramente, ma anche mondiale, ad avere dei problemi. E per esempio in Germania ci sarebbero dei fortissimi tagli in arrivo per Air Berlin, che era nata un po' anche per fare concorrenza almeno sulle tratte verso la Germania e dalla Germania a vettori low cost come Ryanair e EasyJet. Il piano evidentemente non ha funzionato, e ora il principale azionista, che anche in questo caso è Etihad, è in trattativa con Lufthansa per cedere almeno in parte la sua partecipazione in Air Berlin. A proposito di Germania, parliamo, cito un articolo in questo caso tradotto da Internazionale, che si intitola La vera alternativa tedesca, lo ha pubblicato il Tageszeitung, e parla un po' dell'evoluzione della sinistra in Germania, che sicuramente ha avuto un ruolo importante. Se poi vogliamo considerare anche di sinistra il Partito dei Verdi, la Germania è stato un paese che soprattutto negli anni 90 ha visto fortissime affermazioni dei Verdi, che poi si sono un po' persi per strada. E allora scrive appunto la Tageszeitung, anche alla luce delle ultime elezioni amministrative che ci sono state in Germania, e la più importante delle quali Berlino, e poi in vista delle elezioni politiche che ci saranno il prossimo anno, scrive: il fantomatico progetto rosso-rosso-verde, annunciato da anni in diversi piani strategici, potrebbe prendere forma. Non è una piccola realtà come la Turchia, come la Turingia, il Land della Turingia, dove la Linke è addirittura la testa di una coalizione. Berlino è la capitale, lo sarà anche nel 2017 quando si terranno le elezioni legislative. Appunto a Berlino, a seguito del forte ridimensionamento dei partiti di centrodestra e di centro, la CDU e la CSU, si potrebbe appunto configurare questa nuova alleanza, e potrebbe essere uno dei tanti laboratori politici di un'Europa dove, come sappiamo, come dimostra il caso spagnolo, ma anche il nostro caso con il Movimento 5 Stelle, si sta un po' cambiando lo scenario politico, l'identità dei partiti politici, la nascita di questi nuovi movimenti, che è molto difficile connotare o mettere con sicurezza dalle vecchie categorie, antiche categorie della sinistra o della destra. Vi segnalo anche, tra l'altro, visto che abbiamo citato Internazionale, per chi io purtroppo non riuscirò ad andare, però per chi oggi o domani riuscisse ad andare a Ferrara, c'è il Festival Internazionale sul giornalismo, che è iniziato ieri venerdì, e che tra l'altro sicuramente ha in programma tanti dibattiti su queste questioni, l'immigrazione ma anche i temi economici. E vi segnalo come ultima segnalazione, per restare su Internazionale, un'inchiesta che Internazionale cita, perché è questa indagine che ha fatto l'Italia, la Guardia di Finanza, sulle navi cariche di droga, che sono naturalmente, la droga è una merce assolutamente globalizzata, e quindi questa meritevole indagine, scrivono su New York Times Times, due giornalisti, e l'articolo è tradotto da Internazionale, della Guardia di Finanza, che ha sequestrato nel Mediterraneo tonnellate di hashish che raggiungono l'Europa passando per i territori controllati dall'Islamic State. E qui torna appunto la questione di come si finanzia lo Stato Islamico anche con il traffico di droga. E da qui ancora la questione mai risolta ma aperta in molti paesi della legalizzazione del commercio di hashish, perché appunto legalizzandolo si potrebbero togliere proventi, questi sostengono le persone che sono a favore della legalizzazione, proventi alle organizzazioni criminali come lo Stato Islamico. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.